Per le aziende professionisti il cloud significa potenza, risparmio e scalabilità. È la sicurezza di un data center sempre con te. Sviluppa i tuoi progetti con le migliori soluzioni cloud di Aruba.it. Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera, benvenuti a Smart City. L'Agenzia per la protezione dell'ambiente americana ha approvato un piano che prevede di rilasciare nell'ambiente delle Florida Keys nel corso del 2021 e del 2022 oltre 750 milioni di zanzare geneticamente modificate. Si tratta di un progetto pilota col quale si vuole verificare l'efficacia di un metodo alternativo agli insetticidi basato su un'idea che risale addirittura agli anni 50, metodo alternativo appunto per abbattere la popolazione di zanzare, in particolare questa zanzara Aedes aegypti, che è una delle più pericolose perché è vettore di diversi virus, come per esempio quello della febbre gialla, il virus Zika, la febbre dengue, il virus chikungunya, insomma tutte malattie di cui bene o male abbiamo anche sentito parlare. La decisione dell'EPA, di questa Agenzia per la protezione dell'ambiente americana, ha scatenato, non sorprendentemente, diciamo, proteste da parte di organizzazioni ambientaliste, ma insomma suscita anche qualche perplessità negli ambienti scientifici. Di questa iniziativa parliamo con Riccardo Moretti, che è ricercatore della divisione biotecnologie e agroindustria dell'ENEA. Buonasera, buonasera Moretti, benvenuto a Smart City. Buonasera a tutti. Allora Moretti, prima di tutto le chiedo di spiegarci qual è l'idea di fondo. Il principio di base della tecnica dell'insetto sterile è questo: invece di utilizzare un pesticida che viene somministrato su un'area e agisce in modo diciamo cieco su qualsiasi insetto presente nell'area, si possono invece rilasciare in natura tantissimi individui maschili, quindi nel caso le zanzare che non pungono, che attivamente possono cercare le femmine selvatiche, competendo con i maschi selvatici, però inducendo in queste femmine l'incapacità di riprodurci, oppure facendo sì che queste producano solamente una prole che poi non riesce a sua volta a riprodursi. A questo obiettivo si può arrivare attraverso diverse strategie. Dagli anni 50 è noto il metodo basato sull'irraggiamento con raggi X o raggi gamma, che induce delle mutazioni, diciamo, casuali, molto grezze, imprevedibili. Oppure, come è stato fatto appunto dalla Oxitec alla base di questa sperimentazione della Florida, andando a inserire nelle zanzare un interruttore in grado di far sì che la progenie nata dall'accoppiamento dei maschi rilasciati con le femmine selvatiche possa raggiungere lo stadio adulto solo se maschile, mentre nel caso delle femmine queste vanno incontro a disfunzioni dello sviluppo e muoiono prima di diventare adulte. In questo modo questo meccanismo può portare alla produzione di nuovi maschi portatori di questo gene, che con effetto, diciamo, che poi nel tempo andrà a diminuire, saranno in grado di indurre questo fenomeno di mortalità. Quindi questi maschi modificati geneticamente si accoppiano con le femmine, queste producono solo maschi e solo maschi modificati geneticamente, che trasmettono alla generazione ancora successiva questo difetto genetico, chiamiamolo così. Quindi alla lunga una popolazione, diciamo, di insetti, non necessariamente di zanzare, con questa tecnica può essere sterminata. Il meccanismo è studiato in modo tale però di diminuire l'effetto gradualmente, questo sia perché solamente una parte della progenie poi raggiunge lo stadio adulto, sia perché i maschi prodotti in laboratorio sono stati basati su un ceppo che è molto sensibile agli insetticidi. Quali possono essere le controindicazioni di questo approccio? Diciamo, ci sono una serie di rischi messi in evidenza, sia dal punto di vista scientifico, sia per quel che riguarda, diciamo, aspetti più di tipo commerciale o etico. Per partire da quelli di tipo scientifico, possiamo anche fare riferimento a precedenti sperimentazioni di questa strategia che sono avvenute, per esempio, alle isole Cayman o in Brasile. In questi casi si sono osservate delle imperfezioni, diciamo, del meccanismo che hanno messo in guardia. In sostanza, sono stati trovati in natura degli individui ibridi, quindi che avevano in parte il genoma di questi individui rilasciati, in parte quello selvatico, a indicare che in qualche modo può fallire questo meccanismo. È stato evidenziato che mentre originariamente la sperimentazione aveva sostenuto che sarebbero stati rilasciati solamente maschi, in realtà qualche femmina è scappata. C'è scappata. Diciamo, ci sono una serie di campanelli d'allarme. Addirittura, se non sbaglio, questi individui ibridi che sono saltati fuori in Brasile, qualcuno sostiene che siano addirittura più pericolosi o più resistenti di quanto non fossero. Sì, diciamo che questa è un'ipotesi data dal fatto che ovviamente se tu aumenti la diversità in una popolazione che di per sé in una zona tende poi a stabilizzarsi, a far sì che tutti gli individui siano simili, puoi selezionare poi delle caratteristiche che la rendono più efficace nel riprodursi o nel trasmettere malattie. È un po' un'incognita. Ecco, però questo, diciamo, di modificare geneticamente le zanzare non è l'unico modo di attuare questa idea avuta da questo entomologo Kipling negli anni 50. Anzi, proprio lì all'Enea studiate da anni e state anche applicando un approccio alternativo che non richiede modifiche genetiche. Beh, qui in Enea abbiamo provato a sfruttare un altro principio assolutamente naturale. Sfruttando una variante di un batterio naturalmente presente nelle zanzare, il batterio Wolbachia, siamo riusciti ad ottenere dei maschi di zanzara tigre, nel nostro caso, in grado di rendere sterili le femmine selvatiche se rilasciati in natura. Anche in questo caso vanno ovviamente rilasciati in alto numero in modo che possano competere in modo efficace con i maschi selvatici, certo. Ma nel nostro caso abbiamo un vantaggio perché i nostri maschi, essendo assolutamente normali e avendo un patrimonio genetico selvatico, abbiamo già dimostrato su piccola scala anche in campo aperto a Roma, sono molto più efficaci rispetto a quelli prodotti attraverso le altre tecniche. E poi c'è l'ulteriore vantaggio che nel nostro caso non vengono rilasciati nell'ambiente né geni né organismi non presenti, né corriamo il rischio che poi si possa perdere il controllo della tecnica, perché non appena si smette di rilasciare questi insetti, l'efficacia nel giro di breve tempo poi certo, perché la femmina fecondata da questi maschi infetti, diciamo così, semplicemente non mette al mondo nessuna prole, non è che mette al mondo una prole modificata che poi trasmette a catena, esatto, a tutte le generazioni successive questa modifica. Grazie Riccardo Moretti. Grazie e buonasera. Da Maurizio Melis è tutto, a domani. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.